sa mère, c'est les pauvres qui remplissent toutes vos prisons, vos usines, vos émeutes. Mais dans ce cas-là, la France hallucine. Comme on nous donne à tous le profil du gangster, du rappeur, footballeur. On met le costume et on en profite. Hypocrite, ouais, au possible, tout comme vous, on joue le rôle qu'on veut bien nous laisser, quitte à sortir blessé. Et au lieu de s'ouvrir, bah on s'enferme. Donc de plus en plus éloigné de nos bases, on s'en fait. Piégé par nos propres codes, la misère en coprode, l'amour dans le ciment, triste refrain lancinant. Bref, globalement, l'ambiance est tendue. Ma vision de l'avenir, puis des piges à la rétine. Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Emio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:07, questa ritorna Radio Possum. Ritorna dall'oltretomba Radio Possum. Per la vostra infelicità, ovvio. Dopo non è che stavamo in, cioè sì, stavamo anche in vacanza. Leggermente, giusto così, una delle ferie un paio di settimane, sì. Non di più, insomma. Un mese, volevo dire. Pure un mese e mezzo, pure due mesi. So che tu sei stato sullo yacht di Briatore, sì, come siamo, tutti gli anni. Io e Flavio siamo amici di infanzia e quindi niente. Io sono anche un socio del billionaire, quindi sai. Sono una vacanza tra svago e affari, diciamo così. Vabbè, com'è giusto che sia. Vabbè, comunque rientriamo alla grande, visto che abbiamo un ospite internazionale oggi. Oh, attenzione. Addirittura ce l'abbiamo in studio, neanche in collegamento telefonico. Gli abbiamo pagato il biglietto per, certo, venire qua in un jet privato. Certo. Certo. Certo. Trattava di pagare il biglietto del jet privato. Del torpedone. Ecco, tu non dovresti sgamare perché te l'abbiamo pagato noi il biglietto dell'autobus, quindi magari è meglio se non lo dici. Ecco. Vabbè, quindi rientriamo, insomma, dopo le lunghe vacanze estive con l'innovazione e i cambiamenti di cui avevamo già parlato, tra l'altro. Ricordiamo l'ultima puntata, Mocio, che cosa dicemmo? Tra l'altro salutiamo chi ci ascolta da fuori Roma con molta attenzione e ci ha anche interrogato su quali sarebbero stati i grandi cambiamenti che avremmo attuato a settembre. Vabbè, diciamo, Radio Possum sta prendendo tutta un'altra piega. Ora non vi posso dire esattamente le parole vere e precise, però vi dico che ci sono delle grandi innovazioni, ma sì, ve ne accorgerete dalla puntata, diciamo, di questa sera. Non vogliamo anticiparvi la sorpresa, ecco. Comunque, tanto per dire che ci sono cambiamenti, questa sera un tema più improntato sull'ecologismo, no? Esatto. Quindi già questo credo che sia... Infatti ne avevamo pure parlato, no? Che volevamo un attimo un po' cambiare, cioè non cambiare la nostra linea, però aggiungere, diciamo, alla liberazione animale anche tutta una serie di discorsi che parlino anche della liberazione della terra e quindi anche di tutte le problematiche che girano intorno allo sfruttamento ambientale e della terra, insomma, ecco. Vabbè, dai, mettiamo una canzone e cominciamo con questo ospite in incognita, ok? Dai. Allora, eccoci in diretta. Intanto, ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Parla bene nel microfono. Va bene. Ecco, così va bene. Allora, intanto introduciamo un po' la tua persona. Sei chi sei? Sono un essere umano di circa 30 anni che vive dall'alto a 15.000 km da qua, cioè nella Patagonia del Nord in Argentina, e che sta portando avanti in quel posto una battaglia contro le trivellazioni di pozzi per gas e petrolio non convenzionale, cioè contro la pratica del fracking. Ok. Magari possiamo dare qualche dettaglio in più anche, no? Intanto sì, spiegaci esattamente che cos'è il fracking. Il fracking è una tecnica di estrazione di gas e petrolio non convenzionali, cioè il gas di scisto, il tight gas, le arene bituminose. Sono, diciamo, tutta una serie di idrocarburi che non si trovano presenti nella terra in forma di lagunette come poteva essere per il convenzionale, ma hanno forme differenti di essersi prodotti e conservati durante milioni di anni all'interno della terra. Per quello che riguarda il gas di scisto, cioè il shale gas, che è la cosa più, diciamo, di cui è più ricco questa zona della Patagonia, che ha un giacimento molto grande che si chiama Vacca Muerta, che è il terzo più grande del mondo, è un gas che sta dentro dentro delle rocce che hanno una porosità bassa, quindi sono intrappolati in queste rocce. Ok. E diciamo, negli ultimi giorni è arrivata anche in Italia la notizia, insomma, sembra che ci sia una forte mobilitazione popolare anche in opposizione a questa pratica del fracking. Diciamo che c'è un po' di interesse in questa questione. È un dibattito che è stato già tirato fuori un po' sui media tempo addietro. Per esempio il Fatto Quotidiano ne ha fatto abbastanza luce su queste cose, e poi c'è un movimento che sta portando avanti un giornalista molto in gamba che si chiama Piero Don Marco, che è della Basilicata e che ha aperto una campagna No Fracking Italy. Quindi in realtà si sta dando anche qua il dibattito, perché comunque ci sono delle situazioni un po' controverse, per esempio in Toscana, dove un'impresa ha dichiarato che stava iniziando a tirare fuori gas convenzionale e poi è finita nella dichiarazione di impatto ambientale, nello studio di impatto ambientale, dicendo che era shale gas. Quindi in realtà c'è un dibattito, ovviamente è mutatis mutandis, insomma le dimensioni dei giacimenti e del territorio sono differenti, e anche, diciamo, la legge. La cosa che forse andrebbe detta è che in realtà tutte le attività, la maggior parte delle attività di perforazione e trivellazione in Italia stanno sotto segreto, quindi non si sa bene come si può accedere all'informazione, e questa è una cosa abbastanza grave. Ma sotto segreto ufficiale o sotto segreto di fatto? Nel senso, cioè, c'è una legge che mette in segreto queste cose, oppure di fatto sono segrete? No, in realtà io sapevo che c'era proprio una legge, in questo momento non mi ricordo qual è ovviamente, però c'è una legge su questa cosa, e quindi c'è una difficoltà effettiva ad accedere all'informazione, cosa che per esempio in Argentina no, anche se poi di fatto non te la danno, però comunque c'è una legge a cui ci si può appellare, che è di trasparenza ambientale, e a volte riusciamo ad avere delle informazioni grazie a questa cosa. Senti, ci puoi fare, diciamo, una panoramica, una domanda un po' generica, così vaga, su quella che è la politica estrattivista in Sud America, non solo del petrolio ma anche di altre risorse, che, diciamo, appunto, paesi comunque con un'economia con debito eccetera, hanno basato anche governi nazionali anche di sinistra, progressisti eccetera, hanno basato la propria economia proprio sull'estrattivismo, no? Anche per ridurre magari da un certo punto di vista il divario sociale, la povertà, diciamo, finanziare progetti statali, mi riferisco, non lo so, per esempio alla lotta all'analfabetizzazione che ha fatto Chavez, o altri progetti che sono stati fatti di fatto sfruttando l'industria petrolifera. Quindi, diciamo, è un discorso complicato, e nel senso mi piacerebbe sapere da parte tua qual è, diciamo, la situazione, dove porta questo discorso, se il gioco vale la candela, e quali sono gli interessi dei governi in queste cose, gli interessi esterni. La situazione è sicuramente molto grave, diciamo, a differenza di quello che poi è l'immagine della Latina America, che siamo magari molte volte in Europa, e in realtà c'è proprio un movimento del capitalismo globale, diciamo, che sta distruggendo i territori. E quando parliamo di territori in realtà parliamo anche di culture indigene, che molte volte vivono in, in simbiosi, ma secondo la loro cosmovisione giustamente sono parte stessa del territorio, quindi si distrugge un territorio, si distrugge una cultura praticamente, senza parlare poi anche dell'impatto che ha sull'ecosistema, quindi ovviamente sulla fauna e sulle piante, cioè quindi in realtà si distrugge tutto. E più o meno il modello è simile, diciamo, in tutti i paesi dell'America Latina. Forse da questo punto di vista la Colombia rappresenta un po' una, diciamo, un'eccezione, perché è più legata direttamente agli Stati Uniti, quindi c'ha un piano di un trattato di libero commercio che la rende ancora più asservita, e Cile, anche il Cile un po' c'ha questo trattato di libero commercio, quindi in realtà, diciamo, i due paesi più estremi a livello di politiche sono questi due, Colombia e Cile. Cile già si sta muovendo molto a questo punto, perché c'è la mega mineria a cielo aperto, praticamente ha distrutto la cordigliera delle Ande, quindi ci sono un sacco di posti che sono ritrovati senza acqua e con dei veri e propri crateri nelle montagne. Quindi sicuramente le mega miniere di rame e anche di oro, c'è un mega progetto che è binazionale che si chiama Pascua Lama, cioè Pasqua in Cile e Lama in Argentina, che prevede in realtà il trasporto di acqua da una parte all'altra della cordigliera delle Ande. E poi sempre sulla cordigliera in realtà c'è qualcosa che è successo negli anni 90, che è stato come un'abdicazione dei governi cileni e argentini verso le multinazionali, e hanno dato praticamente una striscia di 5.000 km in lungo e 35 km in largo di montagne, l'hanno praticamente data alle multinazionali, perdendo la sovranità su quel territorio. Quindi in realtà quei territori sono zone aperte alle multinazionali, e parliamo di quasi tutta la cordigliera delle Ande. Quindi, tornando un po' alla domanda, diciamo, che tu mi facevi rispetto all'estrattivismo, sicuramente l'America Latina è un continente che in questo momento sì, cioè, ha un problema grande, perché in ogni paese in realtà ci sono delle tipicità dell'estrattivismo, alcune del petrolio, altre delle miniere, per esempio il caso del Perù, dove già intorno alle miniere sono state date delle lotte molto grandi nella regione del nord, Cajamarca, da anni e anni. O per esempio anche della Bolivia, con rispetto al problema dell'acqua che c'è stato anni fa, la guerra dell'acqua, no? Che aveva a che vedere con questa cosa, e dove in realtà la mineria è una cosa tradizionale, perché non è la mineria a cielo aperto, ma è una mineria, diciamo, più artigianale tra virgolette, che comunque ha un impatto ambientale forte. E poi c'è anche il problema del petrolio, mentre invece per esempio in altri posti c'è il problema della soia, che noi consideriamo anche estrattivismo, perché in realtà impoverisce i suoli e usa milioni di litri d'acqua. Per esempio il caso del Paraguay, no? Dove è stato fatto addirittura un colpo di Stato per destituire il presidente Lugo, che era un presidente che, diciamo, aveva più una prospettiva in difesa dei contadini e locali, e invece era contro la corporazione della soia. In questo caso parliamo quasi esclusivamente di Monsanto, che la fa da padroni. Quindi in realtà un progetto come quello di Chavez ha sicuramente avuto più un taglio tra virgolette sociale, e sicuramente ha risolto o migliorato alcune condizioni di certe fasce della popolazione che erano le più colpite, risolto in parte un problema anche di sicurezza che era un po' un'ossessione, anche se poi tutti i media internazionali dicevano che no, però io ho avuto testimonianze di persone che sono state in Venezuela e mi hanno detto prima e dopo Chavez, e mi hanno detto dopo Chavez c'era molto meno, diciamo, molti meno problemi di sicurezza. E poi in realtà, vabbè, c'è anche il Brasile per esempio che sta investendo su biocarburanti, quindi si fanno con la soia e con il mais transgenico, quindi stanno deforestando l'Amazzonia per mettere piantagioni di mais e di soia transgenica. E poi c'è l'Argentina, che giustamente ha un po' di tutte queste cose, perché comunque è stato un po' il paese laboratorio del neoliberalismo, e dai tempi di Menem, con la privatizzazione delle imprese statali e con la cessione di alcuni territori, come dicevo prima, fino ai tempi di Kirchner, con la soia e la mega mineria a cielo aperto, il fracking e anche adesso, oggi in giorno, anche, diciamo, il programma nucleare, che comunque non è da meno, perché in realtà secondo me c'è un fattore che unisce tutte queste attività, che è l'uso delle acque. Quindi si concessiona l'uso delle acque, spesso si regala praticamente, e grazie a questo possono andare avanti le miniere d'oro, possono andare avanti i pozzi di fracking, può andare avanti il nucleare, e possono andare avanti le grandi dighe che affettano la Patagonia e il nord del paese. Senti, in relazione a tutti questi progetti di devastazione del territorio, che, come giustamente hai sottolineato te, sono anche devastazioni della vita di comunità autoctone, indigene, che opposizione ci sta Cioè che per esempio ne parlavamo pure prima della trasmissione, qui in Italia per esempio arrivano abbastanza, o meglio arrivavano notizie di una forte opposizione in Cile dei Mapuche, no? Però per esempio dell'Argentina noi almeno in Italia sappiamo pochissimo, forse niente, perché forse non arriva niente o forse non c'è niente, non lo so, insomma, o c'è poco. Però qual è particolare in Argentina chiaramente, ma in generale la reazione presumo soltanto delle popolazioni indigene, perché penso che il proletariato, chiamiamolo il proletariato, proletariato urbano o semiurbano, in qualche modo vede in questa attività una forma di occasione di lavoro e quindi di sostentamento. Ecco, diciamo che sì, sicuramente c'è una resistenza indigena, questo è ovvio, nel senso che la maggior parte dei casi proprio quell'aspetto della cosmovisione indigena che vede la natura come tutt'uno con l'essere umano fa sì che in realtà ci sia un'altra sensibilità e anche, diciamo, un altro tipo di resistenza a certi progetti. Però per esempio in Argentina invece c'è anche un movimento importante di assemblee autoconvocate che si chiamano di vicini autoconvocati e che sono praticamente di gente che si autoconvoca e che in realtà da più di 10 anni sta organizzando forse quella che è stata una delle poche resistenze organiche a questi progetti. Resistenza che è iniziata con la cosa della mega mineria, o forse è iniziata anche prima con la lotta contro un deposito di scorie nucleari in Patagonia che si voleva fare negli anni 90, e poi in realtà dopo il 2001 con tutte le assemblee urbane diciamo soprattutto dovute alla crisi economica, le assemblee invece si sono spostate, l'attività assembleare si è spostata più nei centri non urbani e soprattutto delle montagne della Cordigliera delle Ande, del centro del paese, cioè La Rioja, San Juan e Mendoza, che sono tutti i posti dove sono stati iniziati i primi progetti di mega mineria a cielo aperto. E in alcuni casi si è riusciti attraverso la mobilitazione a frenare i progetti. In altri invece, per esempio come San Juan, no, dove c'è Barrick Gold, che è una delle miniere più grandi del mondo, e lì per esempio la situazione è molto grave, sono stati fatti dei passi da gigante nella lotta, è stato smascherato il fatto per esempio che Bush fosse uno degli azionisti di maggioranza dell'impresa, però in realtà oggigiorno comunque San Juan è una città che aveva un grande fiume, il fiume San Juan, e in questo fiume non c'è più, cioè si passa sopra il fiume e non c'è più neanche una goccia d'acqua perché la usa tutta la miniera. E ci sono gravi problemi ovviamente con il cianuro, con l'arsenico, che sono tutti i veleni che si usano nella mega mineria. Ricordiamo che la mega mineria usa più di 100 milioni di litri d'acqua all'ora e 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, quindi cioè, praticamente è un consumo di acqua infinito. E questo anche altre province come Catamarca per esempio, che dove c'è un numero grave di bambini che si ammalano per questa cosa, e dove in realtà le imprese vengono, pagano, portano i bambini negli ospedali privati, e insomma, e questo succede in realtà anche un po' dappertutto, anche da noi in Neuquén con il petrolio, e succede anche con la soia nelle province Sojeras della soia. Quindi in realtà c'è diciamo che le malattie infantili sono molto molto alte e stanno aumentando per le nocività. Senti, io direi mettiamo un attimo una canzone di Stop, così per farti pure riprendere fiato, e poi ricominciamo. Tra l'altro sappiamo che ci ascoltano dall'Argentina. Sì, un saluto a tutti i compagni in Argentina, le mandiamo un saluto in spagnol también perché non stanno appoggiando il bueno, ciao, vamos a volver. Vabbè, mettiamo una canzone in spagnolo allora. Benissimo. We'll be right back. Ok, rientriamo in diretta dopo questa canzone in spagnolo, come avranno notato, come si compañeros. Compañeros. Vabbè, dai, smetto di fare il coglione come al solito. Andiamo avanti con la trasmissione. Tu volevi dire qualcosa di intelligente? Sì, ovviamente. Andiamo avanti con questa intervista, va che meglio. No, volevo appunto chiedere al nostro ospite di andare adesso un po' più nello specifico, nel locale, raccontarci un po' la sua esperienza, dove sta in Patagonia, raccontarci un po' appunto delle assemblee che si fanno, chi partecipa, come sono, insomma, raccontaci bene di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto diciamo che questa assemblea è nata nel 2012, nel luglio 2012, e è nata da un incontro che abbiamo fatto tra gente che stava in un orto biologico comunitario e persone di una rete di studio sulle piante locali e sugli usi ancestrali delle piante locali, che si chiama Red Caricia, che la caricia è una pianta, la larrea, il nome latino sarebbe, che è la pianta sacra dei Mapuche per eccellenza e che si usa per fare, diciamo, un po' varie cose, quindi una pianta medica però anche una pianta sacra. Quindi in realtà è nata questa rete dal fatto che è nata questa assemblea, che si chiama Assemblea Permanente del Comau e Porelagua, dal fatto che in realtà la difesa dell'acqua era un po' la parte principale per sia questa gruppazione di persone che lavorano con le piante, che per noi che eravamo in un orto biologico. E da lì ci siamo resi conto che in realtà c'era un progetto nefasto di sviluppare il fracking nel nostro territorio, che è il territorio del Comaue, che è una regione appunto geografica che comprende una parte di Neuquén e una parte della provincia di Rio Negro. E il fracking in realtà è una tecnica che si usa appunto, come dicevo prima, per estrarre idrocarburi non convenzionali. Dobbiamo tenere in conto che il nostro territorio in realtà già da più o meno 70-80 anni è un territorio soprattutto di estrazione del petrolio e del gas. Ci sono dei giacimenti grandi che secondo il governo si stanno esaurendo, e quindi si ricorre a estrarre gas e petrolio non convenzionali scusate, con una tecnica che appunto c'ha un impatto ambientale molto forte, perché si usano milioni e milioni di litri d'acqua per estrarre il gas e il petrolio. Quindi dicevamo che con questa tecnica, che in realtà più che una tecnica è proprio il sintomo di una crisi civilizzatoria secondo noi, cioè il sintomo della crisi della civiltà dell'idrocarburo, in realtà, cioè, fare questo tipo di attività estrattiva vuol dire distruggere il territorio, perché per ogni pozzo che si fa si usano 30 milioni di litri d'acqua, e in questi milioni di litri d'acqua si inietta un 1% di chimici altamente tossici per corrodere le rocce e far sì che l'idrocarburo salga dalla roccia e arrivi fino alla superficie e si possa usare. In realtà noi abbiamo capito che stava pensando di fare questa cosa, e già ci siamo resi conto che anni indietro avevano fatto il primo pozzo sperimentale di fracking di gas non convenzionale di shale gas del Latino America. L'hanno fatto in una comunità mapuche che si chiama Angeleco, che in mapuche vuol dire luogo senza acqua, quindi già c'era un problema grande con rispetto all'uso delle acque. E in più questo pozzo è stato fatto vicino a Sapala, che è una città che ha un acquifero molto importante, una riserva d'acqua sotterranea, e quindi in realtà, siccome tutto si sviluppa a varie migliaia di metri sotterranei, 2500 metri, in realtà poteva arrivare a inquinare questo acquifero, che è in realtà una delle acque più importanti della Patagonia, più pregiata e una riserva importantissima. Quindi tutta questa mobilizzazione è nata così, è nata da questa presa di coscienza in realtà che all'industria del petrolio, che già esisteva in questa provincia, si stava aggiungendo un nuovo capitolo nefasto e ecocida, diciamo, da questo punto di vista. Quindi abbiamo deciso appunto di convocare questa assemblea, e da lì sono iniziate una serie di attività in collaborazione con alcune comunità mapuche, però anche con i ragazzi delle scuole e con un po' tutta la società, per iniziare a diffondere questo problema e allarmare un po' le comunità. E poi in un secondo momento abbiamo iniziato ad articolare con altre comunità, con altre assemblee che si stavano sviluppando nel territorio, soprattutto prima con l'assemblea della Patagonia, delle altre province, Chubut, soprattutto Rio Negro, che hanno una storia forte di lotta contro la megamineria, e poi dopo con la Unione di Assemblee Cittadine, che in realtà è un'unione nazionale. E quindi da lì è iniziato un coordinamento di lotte sul problema del fracking più grande, fino ad arrivare ad oggi a quello che c'è stato il 28 luglio, che è stata la prima manifestazione in simultanea nazionale contro questa cosa, contro il fracking in generale e contro l'ingresso di Chevron dentro all'economia argentina. E poi il 28 di agosto c'è stato proprio un movimento di rivolta contro l'accordo che è stato fatto tra il governo locale e questa petroliera. Quindi le attività che noi portiamo avanti, diciamo, sono differenti e vanno dalla diffusione, dall'aggregazione, convochiamo cortei, organizziamo momenti di protesta, però anche facciamo informazione e soprattutto cerchiamo di dare sempre delle analisi politiche, diciamo, minimamente con uno sguardo d'insieme, perché poi succedono delle cose che magari uno non collega, però hanno a che fare con tutto, diciamo, il problema dell'estrattivismo. Per esempio, una cosa è stata che il presidente ha nominato capo dell'esercito un personaggio che aveva a che fare con la dittatura militare, che in Argentina aveva una vera e propria, diciamo, blasfemia. Quindi lì c'è stato pure un momento forte di tensione, per esempio, con tutto quello che è il movimento dei diritti umani argentino. E secondo noi in realtà questa cosa non è stata casuale, perché noi abbiamo un po' l'idea che si vuole iniziare a monitorare e controllare il territorio più anche con l'esercito, quindi dare all'esercito una funzione poliziesca, diciamo, di controllo. E i fatti della repressione ci sono stati negli ultimi mesi, la cui maggioranza sono a carico di gente delle assemblee, diciamo, un po' sono un po', diciamo, significativi rispetto a questa cosa. Quindi in realtà bisogna stare sempre molto attenti, e quello che facciamo noi è cercare di dare uno sguardo al locale, però anche uno sguardo al generale, vedere come si articolano le politiche e come garantiscono, appunto, alle multinazionali il fatto di avere dei privilegi, come per esempio non pagare le tasse su quello che estraggono o che producono, e il fatto di avere la concessione delle terre e dell'acqua, per esempio, come succede a Neuquén, per esempio fino a 35 anni, nel senso che l'ultima legge che si è promossa sullo sfruttamento dei giacimenti non convenzionali prevede che una multinazionale possa usare una terra per 35 anni. Quindi in realtà diciamo che preclude il futuro a una serie di persone, tra cui le giovani generazioni e anche i popoli indigeni. Prima hai accennato alla repressione, no? Ci vuoi dire qualcosa in questo senso? Nel senso, c'è stata fino adesso, in che forme si esplica? Violenza fisica, processi, arresti. Spesso le compagnie minerarie nel mondo, per esempio estrattive, usano anche vere e proprie squadre paramilitari, per esempio, per... Ecco, questo è un argomento importante, per esempio, perché ci sono stati degli scontri molto grandi a Neuquén, come dicevo, il 28 luglio, e lì c'è stato anche un compagno che è stato ferito da un'arma da fuoco, perché hanno sparato non solo proiettili di gomma ma anche proiettili di piombo, e che comunque, ci tengo a precisarlo, è fuori pericolo. E in realtà la situazione in Argentina è controversa, perché normalmente alle manifestazioni non c'era anche la polizia nella maggior parte dei casi, però poi quando in realtà c'è un giorno che si sta decidendo qualcosa importante, cioè un rischio effettivo per andare in porto di qualche progetto magari economico, lì quando c'è la repressione, insomma, sparano altezza d'uomo, e come dicevo prima magari non sparano solo proiettili di gomma. Quindi dal punto di vista dello scontro a volte è molto dura la questione, però in realtà la maggior parte delle volte non succede quasi niente. E poi dal punto di vista invece degli arresti o delle detenzioni, dei processi, ecco, i processi diciamo che non ci sono, però c'è un problema grande con la legge antiterrorista, che è una legge che in teoria è stata imposta dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, e che in realtà è una legge che noi stiamo lavorando per buttarla giù da un paio d'anni almeno a questa parte, perché praticamente prevede il doppio della pena per ogni reato che si imputa e si condanna. Quindi in realtà è comunque vista molto male. In Argentina la repressione è una cosa molto delicata, perché diciamo che questi governi hanno un po' costruito il loro consenso anche sul fatto che avevano promesso di non reprimere, quindi dopo la dittatura militare, quindi tutta una politica dei diritti umani particolari, che in realtà serve molto da una parte, perché comunque ci sono molti casi anche di repressione, però più che altro nei quartieri poveri. Quindi in realtà i movimenti socioambientali soffrono la repressione, però non tanto quanto la gente dei quartieri poveri, dove in realtà c'è qualcosa che si chiama gatticio facile, che sarebbe il grilletto facile, dove insomma volano i proiettili e muoiono un sacco di ragazzi giovani. Solo a Neuquén nell'ultimo anno sono morti 3 ammazzati dagli sbirri, quindi c'è questo problema, però forse è più legato, diciamo, alla parte più povera della popolazione. Senti, prima ci parlavi anche delle comunità mapuche, che appunto esistono e ci sono, e appunto fate anche delle cose, cioè partecipano a questa lotta, eccetera. Io ti volevo chiedere un pochino magari se fai un tipo un secondo, fai un discorso generale sul fatto che esistono ancora comunità native del Sud America che hanno, diciamo, un altro modo anche di vivere, di concepire una visione del mondo, eccetera. E poi se ci vuoi fare anche una panoramica un po' su quella che sono le comunità mapuche nel posto dove sei tu, ovviamente, come si comportano, qual è il loro atteggiamento nei confronti appunto della politica estrattivista o comunque di depredazione del territorio. Certo, io quello che devo dire è che sicuramente loro sono un po' i nostri maestri in questa lotta, quindi da alcuni compagni e fratelli e sorelle mapuche in realtà abbiamo imparato quasi tutto, e soprattutto un atteggiamento verso la terra che noi non abbiamo, nel senso che lì è una scuola di vita. Ogni volta che noi ci incontriamo con loro, che andiamo nei territori comunitari, in realtà impariamo un sacco di cose, e soprattutto un atteggiamento e una visione dei cicli naturali, della vita proprio in sé per sé differente. Quindi in realtà non è solo una partecipazione, quanto forse piuttosto un'ispirazione vera e propria. E sicuramente ci sono delle grandi contraddizioni dentro il mondo mapuche. Come mapuche è un popolo, e come tutti i popoli c'ha delle contraddizioni dentro, e quindi ci sono parti che sono, una parte di loro è direttamente collegata alle multinazionali, ricevono dei soldi, lavorano per loro, e a prescindere da poi l'impatto ambientale o solo salute che loro hanno, poi in realtà nascono dei vincoli economici che vengono rispettati e sono puramente capitalisti. Molti di questi sono anche d'accordo con il governo, che come ricordavo prima è di un unico partito, si chiama Movimento Popolare Neuchino, e sono 51 anni ininterrotti che sta governando la provincia, quindi in realtà ha un potere molto grande. E poi niente, poi c'è una parte anche che fa una politica differente dalla nostra, che comunque abbiamo lo slogan che dice che no è no, cioè no al fracking in qualsiasi forma, e che in realtà fanno una politica più vertenziale, che potrebbe essere più simile a quella di un sindacato, diciamo, statale, pubblico, e quindi in realtà puntano più al fatto del controllare magari l'attività estrattiva, del fatto che sia fatta bene, che non contamini troppo, e che comunque ci sia anche un ritorno effettivo per le comunità che subiscono questa attività. Quindi in realtà c'è un orizzonte variegato, e ci sono comunità che con cui noi lavoriamo di più, che soprattutto attivano pratiche e politiche attraverso l'azione diretta, e altre che invece credono di più nello Stato, più che altro in tutte le organizzazioni dei popoli originari del mondo, diciamo, quindi tutto quello che l'ONU magari mette in piedi, i parlamenti dei popoli originari, non so, tutta una serie di istituzioni che poi però in realtà molte volte poi vengono finanziate dal Fondo Monetario, vengono finanziate dalla Banca Mondiale, e che quindi, chiudendo un po' il circolo, costituiscono una contraddizione in termini, perché si lotta contro qualcosa che però viene finanziato dalla stessa fonte, diciamo, dello stesso nemico. E quindi secondo noi, insomma, ci sono dei problemi, anche noi abbiamo vari problemi a relazionarci con questo tipo di comunità, perché in realtà è abbastanza evidente che portano avanti delle lotte che forse sono solo vertenziali, secondo noi, perché comunque noi quella roba nel nostro territorio non la vogliamo, non vogliamo il fracking, non vogliamo la mega mineria, non vogliamo il nucleare, non vogliamo la soia transgenica. Quindi queste, questi qua sono i punti, diciamo, da cui non si può prescindere, e se uno prescinde da questi punti forse uno non può condividere una lotta, perché non è, per noi non è una lotta. Mettiamo una canzone, ok. Va bene, dai, mettiamo una canzone e poi ricominciamo. With them. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Intanto, vabbè, mi sembra che avevi qualcosa da aggiungere su per quanto riguarda la questione Mapuche, appunto gli ultimi avvenimenti. Sì, e volevo aggiungere che in realtà una delle comunità con cui stiamo lavorando, che è la comunità di Winkulnewen, ha avuto un'incursione dell'impresa Apache, di un'altra impresa che lavora per loro, e negli ultimi giorni sono andati a fare delle prove sismiche accompagnati dalla polizia e dall'impresa di sicurezza privata che si chiama Prosegur, che è una multinazionale anche quella, e quindi sono entrati nel territorio privato, nel territorio comunitario, e hanno fatto questo rilevamento. E il due giorni dopo il weekend, cioè il messaggero della comunità Martin Malicheo, che è un compagno, è stato convocato dalla polizia per andare al commissariato. Quindi vediamo adesso domani che succederà, o stanotte stessa avrò delle notizie, vediamo che gli sbirri e cosa gli hanno detto, insomma. Quindi c'è una certa pressione. E poi forse volevo parlare anche di un posto che sta accanto a Neuquén, che è nella provincia di Rio Negro, che è Aichen, che è un paese che produce pere e mele che si importano anche in Italia, dove abbiamo avuto come assemblea una buona vittoria, perché siamo riusciti, dopo un anno di mobilizzazione, a imporre, tra virgolette, un'ordinanza che proibisce le detrivellazioni dentro al tessuto urbano. Perché dovete sapere che in realtà nella Patagonia argentina le città hanno dei pozzi di petrolio dentro le città e vicino ai quartieri, quindi la gente vive col pozzo di petrolio a pochi metri dalla casa. Va bene, un attimo, insomma, vediamo di mettere anche un po' in relazione quello che è lo sfruttamento ambientale, la devastazione del territorio, chiaramente anche con diciamo il mondo animale. Quanto appunto questa devastazione del territorio implica anche l'uccisione, l'allontanamento, l'estinzione di specie animali che vivono questo territorio? Sicuramente è un'implicazione forte, nel senso che, per esempio, per fare un esempio concreto, a Neuquén c'è una riserva ecologica che si chiama Ocamahuida, nome Mapuche, dove l'impresa Total ha fatto delle trivellazioni, ha fatto dei pozzi di petrolio. In realtà questa riserva naturale è anche un corridoio speciale per il transito di animali come il guanaco, che è un animale autoctono, che è in via d'estinzione, e altre specie come le lepri, per esempio, e gli uccelli. In realtà, giustamente, questa cosa di avere dei pozzi dentro a una riserva naturale, che per antonomasia dovrebbe essere naturale, appunto, incide fortemente sulla vita di questi animali, che in realtà usano questi corridoi anche per spostarsi e riprodursi. Ma questo è solo un esempio, diciamo, di tutto quello che sta succedendo in realtà, perché la contaminazione delle acque o la salinizzazione delle acque, per esempio, attraverso i chimici o che si usano per il fracking o con idrocarburo, in realtà anche produce un disastro d'ecosistema, e quindi tutta la vita che si dà dentro ai fiumi, i pesci, per esempio, cioè, iniziano a scomparire. In realtà è quello che sta succedendo un po' in tutta la provincia, cioè la fauna, gli esemplari stessi della fauna iniziano a scomparire, si riproducono sempre di meno, e per esempio invece rispetto agli animali che sono gli animali dei Mapuche, quelli muoiono pure, perché comunque bevendo l'acqua avvelenata, cioè, si trovano sempre più capretti morti, cioè c'è tutta una serie di, diciamo, un impatto che in realtà, secondo me, il discorso è un po' questo quando ci sono queste situazioni estreme, cioè se non salviamo l'ecosistema, se non salviamo la terra, non tuteliamo soprattutto l'acqua e le emissioni, e lì, cioè, muore tutto. Quindi bisognerebbe pensarla come fanno i popoli originari, come un tutto. Quindi una volta che pensiamo la cosa come un tutto, poi tuteliamo il tutto e tuteliamo tutto quello che sta dentro al tutto. Scusate il gioco di parole, però. Sì, perché poi diciamo che l'uomo tendenzialmente tende a elevarsi moralmente rispetto alle altre specie, però poi di fatto comunque un animale rimane, proprio come vengono avvelenati gli altri animali. L'uomo, per quanto può usare la tecnologia per difendersi da se stesso, comunque alla fine poi un animale sempre è, e se beve l'acqua avvelenata muore. Certo, e soprattutto siamo 75% acqua, quindi se avveleniamo l'acqua da un punto di vista semplicemente biochimico ci stiamo avvelenando noi stessi, senza poi entrare nelle cosmovisioni dei popoli originari, dove invece l'acqua è una forza in sé, quindi c'è una valenza spirituale più profonda. Infatti c'è tutta una relazione con queste forze, con i Neuquén, come direbbero i Mapuche, che sono le forze della natura che bisogna interpellare ogni volta che ci si entra in contatto. Va bene, io direi che, insomma, se non abbiamo altre domande, forse i contatti. Esatto, ci facciamo dare i contatti e anche i prossimi appuntamenti. Sì, allora i contatti, abbiamo un blog che si chiama APCA, apsa.noblogs.org. Lì ci sono dei buoni materiali sul fracking e articoli nostri sulla situazione. E la nostra mail è apca2012@autistici.org. Lì potete scrivere anche in italiano e vi rispondo io. Avete questo privilegio, sono l'unica persona che parla italiano. E poi i prossimi appuntamenti, diciamo, in Italia avremo degli incontri, uno a Ruvo di Puglia, una società con l'associazione La Mancia, il 20, e poi ci sarà un incontro a Giulianova il 22 e quasi sicuramente il 25 a Cesena, e nello spazio Sole e Baleno. E poi ovviamente la mobilizzazione in Patagonia, che sta andando avanti, quindi il 19 di ottobre ci sarà il Global Frackdown Day, ossia il giorno mondiale contro il fracking, in cui noi abbiamo fatto parte anche l'anno passato, quando abbiamo fatto la prima manifestazione della storia di Neuquén contro il petrolio. E poi il 24 di novembre ci sarà l'Unione delle Assemblee Patagoniche, che si riunisce in Ascia, in questo paese che è riuscito a proibire, diciamo, l'esplorazione e le trivellazioni nel tessuto urbano, per vedere un po' come portiamo avanti la lotta, perché in realtà il territorio lo stanno devastando. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti imminenti, diciamo, che abbiamo. E ricordare che l'altro ieri, il 14 di agosto, sono passati 6 mesi dalla morte di Cristina Lincopan, che era la Lonco, la guida politica e spirituale della comunità di Nielaiko, dove è stato fatto il primo pozzo di shale gas, e lei è morta di una malattia legata a un malfunzionamento dei polmoni, che ovviamente ha a che fare con il fatto che ha vissuto per anni e anni dentro un giacimento in cui i idrocarburi stavano in giro nell'aria, e in cui comunque i residui tossici venivano buttati per terra. Quindi anche ricordiamo la nostra compagna e sorella Cristina Lincopan, perché è stata realmente una delle prime persone a lottare contro il fracking, perché ce l'aveva dietro casa praticamente, quindi la ricordiamo. Senti, in realtà una domanda ce l'avevamo persa per strada, ed è se ci fai anche sinteticamente una panoramica sull'antispecismo, l'ecologismo radicale, l'animalismo nell'America Latina, nel senso che si sa di azioni dirette, liberazioni, sabotaggi in Messico, in Uruguay, in Cile, però complessivamente com'è la situazione, insomma, e anche le differenze rispetto al movimento invece occidentale, europeo o nordamericano. Secondo me lì bisogna fare un po' questa distinzione, diciamo. Da una parte c'è gente che sta portando avanti delle pratiche che sono più simili appunto a quello che si è dato con le pratiche di liberazione animale appunto nel nord del mondo, quindi Europa e Stati Uniti basicamente. E poi c'è tutta un'altra parte che invece ha più a che fare con la visione, chissà, dei popoli originari, giustamente, quindi di questa cosmovisione olistica in cui tutto è un parte di, cioè un tutto insieme, e non si possono, diciamo, concepire le cose separatamente. Quindi anche la stessa idea di diritti a un certo punto, cioè, magari perde un po' la sua potenza, perché in realtà stiamo difendendo dei cicli, forse, più che dei diritti, e tutti stiamo dentro a questi cicli. Quindi secondo me, nella mia visione, ci sono queste due, diciamo, linee guida che a volte si uniscono, però non sono esclusive una dell'altra. E sicuramente, cioè, ci sono delle attività appunto di liberazione abbastanza forti, purtroppo non hanno nessun tipo di visibilità, secondo me, fino a un poco tempo fa si organizzavano degli incontri di liberazione animale a livello di Latin America, che però negli ultimi anni non sono stati più organizzati. E io posso dire che quando sono arrivato 4 anni fa in Argentina, nei primi 2 anni in cui ho vissuto a Buenos Aires, abbiamo fatto anche una rivista che si chiamava Extinción, e che in realtà era un po' un tentativo metropolitano di dare visibilità a pratiche, diciamo, di liberazione, però anche di diffondere, non so, il veganismo, per esempio, cioè di fare un veganismo critico, ovviamente, che non fosse solo la dieta. E dall'altro lato, in realtà, c'è pure il problema appunto con il veganismo, e il problema della dieta, tra virgolette, nel senso che in Argentina è molto difficile reperire dei cibi che siano realmente sani, perché comunque c'è l'uso indiscriminato dei pesticidi è forte, quindi molta gente si passa, diciamo, alla lotta per la liberazione animale entrando da questo lato dell'alimentazione salutabile e sana, che secondo me non bisogna sottovalutarlo, perché in realtà poi non c'è questo, diciamo, questo boom del biologico come c'è in Europa come mercato. E quindi in realtà poi molte volte anche le pratiche, cioè arrivare al biologico comportano pure delle pratiche comunitarie, per esempio come fare un orto biologico, che è una cosa che non è per niente scontato, diciamo, perché proprio, cioè, serve per la sopravvivenza, non c'è scelta a volte, a quello o mangiarsi chili di pesticidi. Quindi c'è questo legame, secondo me, che va tenuto un po' in considerazione in un contesto che è differente, comunque meno consumistico, se vogliamo, no? vabbè, dai, non lo so. Comunque ti sembra un movimento in crescita anche a parte poi l'America Latina sono due continenti, quindi è una cosa enorme, quindi non è facile generalizzare, però complessivamente sembra un movimento in crescita o un movimento in reflusso? No, è in crescita, però è una crescita lenta, diciamo, perché comunque forse da un punto di vista è pure un po' fuori contesto, cioè non ha riuscito secondo me a trovare ancora una dimensione propria, cioè a fare un'adeguazione propria di qualcosa che comunque è un modello che viene da paesi che hanno altri tipi di economie, altri tipi di problemi, e sicuramente, cioè, io penso che, non so, lì bisogna fare proprio un discorso di salvare la terra, perché sennò non si salva niente, cioè comunque c'è questa priorità secondo me. Quindi non so, boh, io per esempio io stesso mi sento più, non so, più preso a fare un discorso di difendere per esempio l'acqua prima che fare un discorso di liberazione animale tout court, diciamo, perché so che una cosa implica l'altra anche, cioè dentro l'acqua sta contenuta pure la liberazione animale in qualche modo. Va bene, sicuramente hai buttato là anche molti, cioè, molti spunti di riflessioni importantissimi da approfondire, però purtroppo il tempo è quello che è. E noi ti ringraziamo, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere che vuoi dire. Vabbè, mandare un saluto alla gente che ci sta ascoltando dall'Argentina, perché comunque, cioè, sono dei grandi che resistono, e niente, in realtà ringraziare voi, è stata veramente una cosa prima di tutto divertente e poi penso anche importante, e la speranza è quello di riuscire a creare in realtà una rete di solidarietà internazionale per poter dare visibilità alle nostre lotte, che poi in realtà sono lotte che condividiamo anche con tutto il mondo, perché sono lotte globali. Soprattutto perché le multinazionali vengono da questa parte del mondo a colonizzare anche. Esatto, io per esempio l'altro giorno dovevo fare benzina, quando sono sceso a dare i soldi alla Shell mi volevo suicidare praticamente, però ho detto vabbè, nella banalità della quotidianità. E poi niente, questo in realtà, cioè sperare che in realtà riusciamo a fare creare una rete di solidarietà e condividere le lotte locali di qua, le lotte locali di là, e che tutto che ci sia più comunicazione, in maniera che comunque ci diamo forza l'un l'altro, ecco, perché poi anche le lotte secondo me locali qua sono importanti, è importante che si conoscano dall'altra parte del mondo, quindi questo. Va bene, dai, naturalmente già non finisce qua, prendila come una minaccia, ma sicuramente ci risentiremo anche, cioè, sia per vedere come va avanti la lotta che portate avanti, sia anche per parlare appunto di altre cose. Sicuramente non mi sentirete così rilassato, diciamo, perché comunque stare là è quasi stare in trincea, quindi quando ci sentiremo sarà un po' più agitato, però a voglia. Apprezzo. Dai, io grazie di tutto, della disponibilità e delle cose molto interessanti che ci hai detto, soprattutto perché ci servono anche appunto a un po' variare prospettiva, informarci su parti del mondo di cui in fondo non, fondamentalmente non conosciamo nulla, insomma, al di là dell'idealismo che ci facciamo su certe zone del mondo. No, però ecco, secondo me quello che dobbiamo un po' entrare nell'ottica, magari, che anche me lo dico anche come critica, come autocritica, è di riuscire a capire che quando facciamo una lotta di liberazione della terra in realtà stiamo facendo una lotta di un unico pianeta, quindi c'è questa cosa di globalità, forse c'ha realmente un senso forte in questo senso, nel senso che la Terra è una comunque, cioè stiamo tutti sullo stesso pianeta, e quindi l'internazionalismo tra virgolette delle lotte di questo tipo c'ha questo senso più profondo in realtà, cioè che siamo tutti parte di questa Terra e bene o male comunque, cioè, soffriamo e gioiamo con lei, quindi quanto più la difendiamo meglio è, secondo me. Va bene, dai, mettiamo una canzone, ti ringraziamo ancora e ci avviamo alla conclusione della trasmissione. E allora ritorniamo in diretta dopo i Lissy Dance Floor Disaster, uno dei miei gruppi preferiti ultimamente. E niente, va bene, insomma, partiamo dicendo insomma che Radio Possum ha partecipato all'incontro di Liberazione Animale che c'è stato il 6, 7 e l'8 settembre a Venaus. E vabbè, insomma, non staremo qua stasera, visto che anche non abbiamo tempo, a raccontarvi ciò che è accaduto e insomma i dibattiti che ci sono stati, però ci interessava leggere quello che è stato un contributo da parte di Elisa, che è la ragazza che era stata incarcerata, che per fortuna è uscita da Rebibbia, e insomma aveva scritto un contributo per l'incontro di Liberazione Animale. Io ve ne leggerò soltanto alcune parti e insomma chiunque fosse interessato a leggere per intero tutta la lettera può comunque trovarla su Informazione, e ci sta sia la sua sia altri contributi sull'incontro di Liberazione Animale e anche la lettera di Harry, un altro compagno boliviano in carcere. Allora, saluto per il nono incontro di Liberazione Animale. Vado un po' così, insomma, abbraccio e vi dico qualcosa, insomma, di questa lettera. Sono convinta che il veganesimo non sia sempre così innocuo a livello di impatto ambientale. Vogliamo, per esempio, aprire il capitolo relativo alle multinazionali della soia? A meno che non venga praticato in maniera anti-industriale, ed è per questo che sono certa che alcune forme di vegetarismo e onnivorismo siano più ecologiche, sempre quando non complici di una produzione industriale. Onnivorismo, quale eresia, esclamerà forse qualcuno dei presenti. Sì, onnivorismo. Secondo me, infatti, dobbiamo fare attenzione a ciò che vogliamo mettere in pratica. Ecologismo radicale? L'ideale sarebbe sconfiggere ogni meccanismo tecno-industriale, rinunciare a cibarci di prodotti che della terra hanno solo una lontana provenienza, e a questo punto, se questi prodotti siano vegetali o animali, diventa relativo. Sacralità della vita? Proteggere da morte e sofferenza ogni essere vivente è possibile fino a un certo punto, e la natura che tanto diciamo di amare non è così clemente come il nostro immaginario mitico ci induce a desiderare e pensare. A tal proposito, per esempio, so di vegan animalisti antispecisti che vorrebbero interferire con gli istinti predatori degli animali con cui vivono, impedendo che eventuali prede finiscano tra le zampe delle fauci dei loro predatori, anch'essi vegan, come i loro padroni. Ma non è forse un riflesso di quell'antropocentrismo che vorremmo superare? Penso proprio che sia inutile ribadire l'importanza e la necessità della liberazione animale con ogni mezzo necessario. Ad ogni modo, parlare di liberazione animale da una prospettiva libertaria ci dovrebbe far ricordare che l'essere umano è l'animale che vive in cattività da più tempo in assoluto. Di quante gabbie dobbiamo liberarci ancora? Tante, tantissime. Io non sono depositaria di nessuna verità, ma ho delle convinzioni. Come anarchica, a maggior ragione alla luce di questo periodo storico iperliberticida, mi rifiuto di usare il concetto di diritto in relazione agli umani, quindi non lo uso nemmeno in relazione agli altri animali. Si tratta di una menzogna che aiuta le istituzioni nella loro opera di rappresentanza su delega. Ecologismo radicale e liberazione animale si possono perfettamente conciliare, anzi, dovrebbero essere inscindibili. In un percorso di liberazione totale, penso proprio che sia il caso di rifiutare ogni specializzazione per tematiche, per comprendere che non c'è libertà senza liberazione da ogni trappola culturale. È bene continuare a liberare animali, non solo dalle gabbie striminzite degli allevamenti e dei laboratori, ma, se proprio devo dirla tutta, anche da quelle più spaziose e amorevoli dei rifugi. Ma questo sarebbe più accettabile se sapessimo che fuori da questi rifugi non ci sono strade e macchine a interferire con le corse di libertà di questi stessi animali. Allora è necessario distruggere anche le gabbie che strade e macchine rappresentano, anche per noi. E allora è urgente lottare contro la gabbia dell'urbanizzazione. E allora non si può non annientare la gabbia dell'antropocentrismo. E allora siamo di fronte ad un mastodontico lavoro di sovversione culturale per liberarci da ogni forma di dominio. Un abbraccio ribelle. Va bene, insomma, questo era il suo contributo. E a questo punto è ritornato dall'Argentina. È ritornato dall'Argentina, l'argentino. Vuole dire qualcosa, sì, l'argentino. Voi speravate che mi era andato, invece niente, sto ancora qua. No, in realtà una precisazione, perché stavo sfogliando Repubblica di oggi e si diceva che Larry Summers rinuncia per la prima volta al vertice della Banca Centrale degli Stati Uniti. Larry Summers è un allegro economista che ha fatto un informe, l'informe Summers del 1991, per il Fondo Monetario Internazionale, in cui diceva che tutte le industrie inquinanti e contaminanti devono essere spostate nei paesi subinquinati, cioè che avevano un inquinamento ancora basso perché erano subdesarrollati, cioè sottosviluppati. Quindi in realtà, se oggi ci troviamo in questa dimensione di super inquinamento, lo dobbiamo anche a questo simpatico economista che oggi quasi diventava il presidente della Banca Centrale degli Stati Uniti e ha rinunciato. Notizia così di colore. Va bene, allora con questa allegra curiosità salutiamo con questa prima innovativa puntata di Radio Possum. Che apre il nuovo ciclo di Radio Possum. Sì, che apre stagione 2013-2014. Non è chiaro neanche a noi, ma insomma. Ma intanto è partito. Intanto è partito. E che sicuramente come obiettivo si pone il cambiamento della sigla iniziale. Certo. Adesso vediamo quando questo accadrà, soprattutto. Va bene, dai, allora vi lasciamo i microfoni. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.9, una radio libera e militante che non campa d'aria perché è autogestita e autofinanziata. E quindi vi diamo i contatti per sottoscrivere, che sono il conto corrente postale 6180-4001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Le Voci 56-00185 Roma, oppure per chi è capace e chi può sul sito www.ondarossa.info si può sottoscrivere in maniera telematica. E va allora, bene, direi diamo anche i nostri contatti. Sì, qualcuno se li ricorda? Dai. Allora, il blog è radiopossum.noblogs.org e la mail la dice qualcun altro, perché la Gazzaladra cogliocciola inventati. Cogliocciola. Cogliocciola inventati. Mi stai dicendo, in realtà mi stai dicendo coglione, quindi decido cogliocciola. Lei dice coglione, è vero. Cogliocciola inventati. Cogliocciola. Va bene, allora insomma ci salutiamo e salutiamo tutti coloro che sono privati della loro libertà personale, siano essi umani o non umani. Ciao. Ciao. Ciao.